lì a notte fonda, lei bacia il sole. Nelly, un'autostrada senza rumore. Nelly, la testa in fiamme chiusa in un forno. In equilibrio Nelly muore ogni giorno. Nelly, le mani in tasca, una cometa. Con una cicca in bocca come una spada. Quando attraversa i campi incrocia le dita. Nelly spara silenzi a chi l'ha tradita. Né lì, né mai, né dove, nel volo di un airone. Né lì, né mai, né dove, saprai dov'è il suo cuore. Nelly, lei dove passa, si fanno in quattro. Gli arcobaleni inchino, gli fanno il vento. Libera dal mare onde, polvere d'incenso. Per rivestirla basta un cielo immenso. Gli occhi grandi dischiusi come due noci. Nelly rischia il collasso, sente le voci. Nelly accarezza l'aria, poi sfiora l'erba. Nella penombra oscura lei bacia l'ombra. Scende il sipario, Mannelli è sempre di scena. Una pantera in gabbia quando fa sera. Spine di spighe sparse lungo il suo viso. Spicchi d'arancia rosse il suo sorriso. Sempre per sempre avanti contro i mulini. Traccia una linea dritta oltre i confini. Di lei si dice che abbia toccato il fondo, ma quello che Nelly vede è un altro mondo. Né lì, né mai, né dove, nel volo di né lì, né mai, né dove, saprai dov'è il suo cuore. Né lì, né mai, né dove, nel volo di un aerone. Né lì, né mai, né dove, saprai dov'è il suo cuore.